Le 13:10. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Benvenuti a GR Extra Large, oggi in conduzione Maria Piera Ceci e Daniele Biacchesi. I titoli delle principali notizie, parte dal Cairo, nuovo dialogo americano con il mondo islamico, cerchiamo un nuovo inizio, ora è tempo di superare le differenze, ha detto Barack Obama all'università egiziana. 20 anni fa la strage di Piazza Tiananmen a Pechino, la polizia reprimeva la rivolta degli studenti che chiedevano un cambiamento. Abuso d'ufficio è reato ipotizzato dalla Procura di Roma nei confronti del premier Silvio Berlusconi, che è indagato nell'inchiesta sull'impiego improprio degli aerei di Stato. Elezione europea, Olanda e Gran Bretagna alle urne, stasera gli olandesi comunicano l'esito del voto. 5 magrebini arrestati dai rossi dei carabinieri, nella primavera del 2006 stavano preparando attentati alla metropolitana di Milano, alla chiesa di San Petronio di Bologna. La fotografia della crisi economica, secondo Federalimentare, 2 italiani su 10 riducono la spesa, si consuma più pasta, carne, pesce, boom della verdura in vaschetta. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Sono venuto qui al Cairo per proporre un nuovo inizio nei rapporti tra Stati Uniti e musulmani nel mondo. Un nuovo inizio basato sul rispetto reciproco, sull'interesse reciproco. L'avete sicuramente riconosciuto, Barack Obama, lo abbiamo fatto sentire in diretta poco fa nel suo attesissimo discorso del Cairo in Egitto. È stato rivolto al mondo musulmano e ne sentiremo ampi stracci tra poco nel secondo blocco di Extra Large. Ora veniamo invece alla campagna elettorale che ormai gli sgoccioli in vista del voto di questo fine settimana. Maratona già iniziata per le europee con l'apertura oggi dei seggi in Olanda e Gran Bretagna. La Gran Bretagna deve nominare 72 eurodeputati, Paesi Bassi 25. L'Olanda già stasera, in Olanda verranno già stasera anticipati i risultati elettorali, unico caso in Europa. In Gran Bretagna invece, dove si vota anche per le amministrative, le elezioni sono anche un test politico importante in pieno scandalo dei rimborsi gonfiati dei parlamentari. Ma veniamo alla nostra campagna elettorale, quella delle europee, quella delle amministrative, un tour elettorale televisivo questa mattina per il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in diretta Elisabetta Fiorito. Allora, intanto parliamo di europee, come dite voi, Berlusconi è convinto che il PDL sarà il primo partito europeo, è stata una campagna elettorale sgangherata solo da una parte, noi abbiamo parlato d'Europa, dice il Premier, e il PD si comporta come nella Prima Repubblica perché ancora non rivela con che gruppo sarà, con il gruppo liberale o con quello socialista. Però il problema qui di queste elezioni europee amministrative sembra invece essere una vicenda di casa, e quella dei voli di Stato. Il Premier Silvio Berlusconi non si dà per vinto dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto secondo la Procura di Roma. Berlusconi risponde proprio sui voli di Stato, la colpa è dell'opposizione, e questa è la tesi del Premier, sentiamolo. È un'indagine obbligata, no? C'è una denuncia, certo. Si fa l'indagine, poi si archivia e l'archiviazione è sicura, è un caso che dimostra la meschinità delle persone con cui abbiamo a che fare, che stanno all'opposizione, perché dire al Presidente del Consiglio Berlusconi che è non consentito di trasportare, quando si deve spostare con l'aereo di Stato, qualche persona che fa parte del suo giro e che serve per quelle ricezioni di ospiti che io sono solito fare nella mia casa di Sardegna, beh, questo è veramente una cosa ridicola, che dimostra la pochezza e l'invidia personale di questi signori. Insomma, sulle critiche della stampa estera, Berlusconi è sempre più convinto che ci sia un gruppo editoriale italiano, ma prima di puntare il dito accusatorio, dice Berlusconi, bisogna avere in mano circostanze fermissime. So come si comportano i giornalisti stranieri nei salotti romani, spiega il Premier, dove attingono notizie dai giornali della sinistra. E Berlusconi, che ieri a Porta a Porta aveva attaccato anche Murdoch, oggi si corregge in parte. Dice, c'è stata una frattura con il gruppo Murdoch, che ricordiamo è quello di Sky, e ci sono stati una serie di articoli critici nei miei confronti. Non voglio essere maligno, ma puntini di sospensione. Palermo tornerà pulita in 9 giorni e qui entriamo nell'istanza spazzatura. L'inchiesta sui rifiuti a Napoli non riguarda l'attuale governo perché risale al 2005 e riguarda le riforme invece per Berlusconi, la maggioranza ha i numeri per poterle fare da soli. Grazie ad Elisabetta Fiorito e tour elettorale televisivo anche per il leader del PD Franceschini. Stamattina la registrazione della puntata di stasera di Matrix su Canale 5. Ce ne parla Andrea Viali. Sì, Dario Franceschini, ironico, ha definito ridicolo pensare come sta facendo in queste ore Berlusconi, che dietro le critiche della stampa estera, dietro le inchieste giudiziarie che lo riguardano, possa esserci in qualche modo qualche mandante a sinistra. In particolare poi sulla vicenda dei voli di Stato per i quali il Premier è indagato, il segretario del PD ha detto che spetta alla magistratura accertare ora la verità, ma al di là di eventuali reati c'è anche un problema di moralità della politica, ha detto Franceschini, perché quei voli, ha ricordato, sono pagati con i soldi dei contribuenti. Abusarne significa non andare nella direzione che la politica dovrebbe prendere in un momento come questo di crisi economica. Franceschini ha anche replicato alle affermazioni fatte ieri da Berlusconi sugli ammortizzatori sociali destinati ai precari che perdono il lavoro e ha spiegato che l'intervento del governo equivale ad un aiuto che non va oltre i 35 euro al mese, una vergogna secondo Franceschini, che ha rilanciato la proposta di un vero assegno di disoccupazione per tutti i precari che restano senza lavoro. Il segretario del PD ha anche detto di temere il rischio di astensione per queste elezioni, soprattutto dove si voterà soltanto per le europee, rivolgendosi agli elettori di centrosinistra, li ha invitati ad andare a votare perché in questo momento ha detto che il Paese ha bisogno di un'opposizione forte che possa svolgere anche un ruolo di controllo nei confronti del governo. Berlusconi e il PDL sono solo una minestra riscaldata, il PD è la garanzia per il futuro, ha concluso Franceschini. A voi la linea. Grazie. Grazie ad Andrea Viali. E dunque avete sentito questa l'infuocata campagna elettorale, ne mancano pochissime ore. Vi ricordo che Radio 24 domenica sera dalle 22 alla 1 racconterà in diretta exit poll, intenzioni di voto e poi i dati reali. Stessa cosa poi un altro speciale il giorno dopo, l'8 di giugno dalle 14 alle 16, però più improntato alle elezioni amministrative. E la notizia di cronaca importante di oggi viene da Milano, dove sono stati arrestati 5 maghrebini da roccia dei carabinieri. Erano pronti, secondo l'accusa, a colpire la metropolitana di Milano, San Petronio a Bologna. Tutto questo sarebbe dovuto avvenire nella primavera del 2006. Questo gruppo era attivo anche in Algeria, Siria e Marocco. Le 13:21 minuti, queste notizie principali di GR Extra Large. Parte dal Cairo, il nuovo dialogo americano con il mondo islamico. Obama ha detto di cercare un nuovo inizio. 20 anni fa la strage di piazza Tiananmen a Pechino, con la polizia che allora reprimeva la rivolta degli studenti che chiedevano un cambiamento. Abuso d'ufficio e reato ipotizzato dalla procura di Roma nei confronti del premier Silvio Berlusconi. Le elezioni europee, Olanda e Gran Bretagna alle 1. Questa sera gli olandesi comunicano l'esito del voto. La cronaca con i 5 magrebini arrestati dai ROS nel 2006, stavano preparando attentati a Milano e a Bologna. E la fotografia della crisi economica, secondo Federalimentare, 2 italiani su 10 riducono la spesa, si consumano pasta, carne, pesce, boom della verdura in vaschetta. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest. Ecco, lo stiamo sentendo, Barack Obama, l'abbiamo seguito in diretta poco fa qui su Radio 24, ha proposto un nuovo inizio nei rapporti fra Stati Uniti e musulmani nel mondo. Era lì al Cairo ad assistere allo storico, davvero storico discorso di Barack Obama, anche il nostro Mario Platero. Buongiorno Mario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un altro discorso storico, abbiamo detto, è davvero è stato così. Quanta sostanza e quanta retorica in certi punti in questo discorso, Mario? Ma direi quello che conta è il risultato netto. Il risultato netto va al di là della retorica, perché Barack Obama in questo discorso ha fatto affermazioni nuove, sicuramente nuove non soltanto per il mondo islamico, ma per Israele e per gli stessi americani. Quando Barack Obama nel discorso racconta che in America ci sono 7 milioni di musulmani, che ci sono 1200 moschee, che la religione islamica deve essere rispettata e integrata in modo non diverso da quella cristiana, beh, dice qualche cosa di molto importante per le orecchie degli americani e che naturalmente ha molto impressionato il pubblico qui che lo ascoltava all'università del Cairo. Ecco, il punto centrale, principale di questo discorso, un discorso molto articolato in 7 punti, resta secondo me il fatto che Obama ha cercato di riunire le tre fedi, quindi la fede islamica, cristiana ed ebraica, sotto l'ombrello della eredità comune, e cioè dell'eredità di Abramo. E anche questo è stato un punto in cui ci sono stati molti applausi, un discorso di inclusione per i musulmani che finora si erano sempre sentiti un po' esclusi rispetto all'unione che si è rinsaldata negli ultimi 30-40 anni nella tradizione cosiddetta giudaico cristiana. Ecco Mario, è stato un passo in avanti importante da questo punto di vista. Certo, naturalmente molto atteso era anche il passo su Israele. Sì, ecco, infatti in questo contesto direi cominciamo dal dire che Obama ha trattato 7 punti in questo discorso: il terrorismo, la politica palestiniana israeliana, e poi le armi nucleari, la democrazia, la religione, i diritti delle donne e poi i principi per lo sviluppo economico. Quindi un discorso articolato in cui l'Islam può integrarsi con l'Occidente. In questo Israele deve giocare un ruolo centrale e direi Obama è stato molto esplicito, soprattutto su questioni molto specifiche come quelle degli insediamenti. Sappiamo che Netanyahu e molti membri del suo governo sono contrari a fermare, a congelare gli insediamenti, dicono che sarebbe come bloccare la vita. Ebbene, Obama lo ha ripetuto nonostante le critiche che ha avuto sia in America che da Israele per le dichiarazioni di qualche giorno fa. Ecco, lo ha ripetuto qui davanti a una platea araba, islamica, davanti alla platea islamica di 1 miliardo di persone del resto del mondo, e dunque è una posizione la sua dalla quale non farà sicuramente marcia indietro e sarà sicuramente un contenzioso tra Gerusalemme e Washington. Ecco Mario, non possiamo ripercorrere tutto il discorso anche perché l'abbiamo fatto sentire in diretta integralmente. Dici però le facce, le sensazioni di chi davvero ha assistito a questo discorso, tu che eri lì. Ma guarda, ecco, c'era un'atmosfera di straordinaria calma, attenzione e di grande rispetto. Obama ha parlato molto bene, si è inceppato forse 3-4 volte, sicuramente l'emozione, e ci sono state grandi esplosioni di applausi da parte del pubblico, soprattutto quando Obama ha citato il Corano, ha citato dei passi del Corano che danno all'Islam un volto ben diverso di quello che in America e in altre parti del mondo si finisce per avere come luogo comune, cioè quello del terrorismo, della violenza. Invece Obama appunto ha citato vari passaggi del Corano che dimostrano il contrario, che provano il contrario, che provano che la maggioranza dei musulmani è votata alla pace e alla costruzione e di un rapporto con l'Occidente e non il contrario. Ecco, quando Obama ha parlato di questo la sala letteralmente è esplosa, esplodeva in applausi. Abbiamo sentito varie volte qualcuno che urlava "I love you Obama" e Obama che rispondeva "Thank you", quindi anche un piccolo così rapporto, dialogo diretto con certo. Il pubblico, un pubblico devo dire peraltro molto ordinato e molto misto. C'erano giovani, c'erano studenti, ma c'erano anche dignitari, c'era la diplomazia e c'erano importanti personaggi del Cairo ed egiziani, e c'era così una folla variopinta, c'erano le ragazzine, le signorine che avevano i loro veli, ma veli colorati, non veli neri, un po' tetri, erano tutti veli rossi, celesti, azzurri, variopinti, ecco, quindi un'atmosfera direi molto positiva e costruttiva. Insomma, Obama ha fatto colpo non solo sulle donne occidentali, ma anche su quelle con il velo, evidentemente. Grazie Mario, grazie mille. Grazie a te. Grazie a Mario Platero, del resto ormai siamo abituati all'oratoria davvero trascinante di Obama. Quindi stiamo parlando del dialogo americano con il mondo islamico, della mano offerta da Barack Obama verso un mondo che è stato, diciamo, per molti anni ostile. E siamo in diretta con Adib Fateh Ali. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Quali sono stati i primi segnali dal mondo arabo, dal mondo islamico più generale? È appena finito il suo discorso, ma la grande soddisfazione è stata palese, non dico solo tra il pubblico che ha avuto come migliore testimonianza, 33 applausi hanno interrotto Obama, e pensare che questo pubblico non era composto da un pubblico pagato per applaudire, erano i rappresentanti, 2500 persone che dietro richiesta della stessa amministrazione Obama dovevano essere la più larga rappresentanza di tutte le espressioni sociali e religiose del mondo islamico. Quindi questo pubblico ha interrotto Obama, ma la cosa più interessante è vedere la grande soddisfazione addirittura espressa da una TV come Al Jazeera, sulla quale mi sono sintonizzato un po' per seguire il discorso. È piaciuto moltissimo ad Al Jazeera la citazione al Corano, continua ai versi del Corano, ha restituito dignità all'Islam linciato dopo l'11 settembre, ha detto uno dei commentatori della TV. Non avere mai usato la parola terrorismo, ma ha usato la parola estremismo, è stata molto notata e apprezzata da parte della TV Al Jazeera. Persino le parole verso Hamas, alla quale riconosceva rappresentatività, è stato apprezzato molto. Particolare applauso molto forte è stato molto sottolineato anche da Al Jazeera quando ha parlato delle donne, sia dell'eguaglianza e la libertà delle donne, sia il loro diritto di portare il velo. Sì, un argomento un po' delicato effettivamente questo, no? Fra libertà e comunque necessità di dare maggiori diritti alle donne. Certamente, guardi, c'era un docente universitario saudita molto ascoltato, la cosa che ha detto era molto indicativa, che quest'uomo, questo è un leader, mai avuto nella storia degli Stati Uniti un presidente come questo, ma neanche in tutto l'Occidente di oggi c'è un leader della sua caratura con questa volontà. Dobbiamo approfittare, certo, del momento e dargli ascolto. Quindi insomma, a caldo possiamo dire che il discorso è piaciuto al mondo musulmano. Poi magari, Adib, sicuramente ci risentiremo nelle prossime edizioni, perché tu, guardando un po' fra i siti eccetera, ci racconterai più magari nel dettaglio qual è stato l'impressione che arriva dal mondo musulmano. Grazie mille, grazie a te. Le 13:36 minuti, queste le notizie principali di GR Extra Large. Parte dal Cairo, il nuovo dialogo americano con il mondo islamico, cerchiamo un nuovo inizio, ora è tempo di superare le differenze, dice Obama all'Università del Cairo. 20 anni fa la strage di Piazza Tiananmen a Pechino, la polizia reprimeva la rivolta degli studenti che chiedevano un cambiamento. Abuso d'ufficio, reato ipotizzato dalla Procura di Roma nei confronti del premier Silvio Berlusconi, indagato nell'inchiesta sull'impiego improprio degli aerei di Stato. Elezioni europee, Olanda e Gran Bretagna alle urne, stasera gli olandesi comunicano già l'esito del voto. 5 magrebini arrestati dai ROS stavano preparando attentati nel 2006 alla metropolitana di Milano, alla chiesa di San Petronio di Bologna. La fotografia della crisi economica secondo Federalimentare, 2 italiani su 10 riducono la spesa, si consumano più pasta, carne e pesce, boom della verdura in vaschetta. Proprio da qui partiamo con i consumi alimentari in tempo di crisi. A Parma l'assemblea di Federalimentare, la crisi si sente nel settore, un settore che però regge il colpo rispetto ad altri con un export che ha continuato a correre. In tempi di crisi ci si rifugia in prodotti tradizionali e da noi quello più tradizionale per eccellenza è la pasta, boom delle verdure pronte in vaschetta. Il presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio. In un momento di crisi, sia nel 2008 sia nell'inizio del 2009, l'industria alimentare italiana tiene inevitabilmente, proprio per le sue doti anticicliche, meglio di altri settori che, ahimè, vediamo, vanno perduti in questi mesi oltre il 20% della produzione del fatturato. L'industria alimentare italiana invece nel 2008 chiude sostanzialmente in pareggio e nei primi mesi del 2009 ha un cedimento leggero di 2-3 punti percentuali. Forte tenuta dell'alimentare con una crescita molto forte sull'export. Nel 2008 l'export alimentare italiano ha toccato il 17% del rapporto export fatturato e ha toccato i 20 miliardi di euro. È un risultato particolarmente positivo, non si verificava da anni. Certo, qualche preoccupazione l'abbiamo, non soltanto sulla produzione ma soprattutto sull'export. Sull'export perché Vede, questi 20 miliardi di fatturato dell'industria alimentare italiana fatti nel 2008 sono concentrati per il 50% in quattro mercati: Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Almeno tre di questi mercati sono stati e sono fortemente colpiti dalla crisi finanziaria che viene dagli Stati Uniti. Quindi un po' di preoccupazione, ma io credo che se le imprese alimentari italiane continueranno a fare prodotti di qualità e con una forte sicurezza alimentare, e se le istituzioni, penso all'ICE, penso alla SIMES, alla SACE, a Buon Italia, sapranno fare squadra e supportare la promozione e la cultura del Made in Italy alimentare nel mondo, io sono sicuro che l'industria alimentare supererà anche questa fase. Slitta di qualche giorno il passaggio di Chrysler a Fiat, molti fondi infatti hanno presentato ricorso, si oppongono alla cancellazione di due terzi del debito. Intanto di qua dall'oceano continua la soppopera Fiat Opel, come l'aveva definito lo stesso Marchionne qualche giorno fa. Sono convinto che lì le carte siano ancora da giocare, ha detto stamattina il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola. Chissà se nei prossimi mesi si riaprirà la vicenda Opel, aggiunto. Il piano industriale della Fiat è il migliore. La prima scelta del governo tedesco e della General Motors è stata di carattere finanziario e condizionata dal clima politico tedesco. Intanto sono tornati al lavoro i lavoratori della Fiat di Melfi. Cancelli di nuovo aperti da questa mattina alla Fiat di Melfi. Con la mediazione di Confindustria Basilicata, sindacati e consorzio ACM hanno raggiunto un'intesa per il rinnovo del contratto, scaduto a metà maggio, di 13 lavoratori interinali della Magneti Marelli, che verranno assunti in altre aziende dell'indotto. I sindacati hanno accettato con riserva e ne discuteranno per l'intera giornata con i lavoratori. Il mancato rinnovo ha provocato uno sciopero in due aziende dell'indotto, durato quasi una settimana, provocando la sospensione della produzione nello stabilimento Fiat ed il senza lavoro per 5.000 operai. L'intesa raggiunta prevede anche il recupero della mancata produzione di ben 8.000 grandi punto, verificatasi a causa dello sciopero. Gennaro Grimolizzi, GR24, Il Sole 24 Ore, Melfi. A Napoli ora, dove prosegue l'inchiesta che ha portato all'arresto ieri di 15 persone. Dopo le 15 ordinanze di custodia ai domiciliari, l'ultima eseguita dalla DIA e dalla Guardia di Finanza stamattina, sono iniziati gli interrogatori di garanzia. Incarichi clientelari per costituire le commissioni di collaudo che hanno certificato il falso attestando il buon funzionamento dei 7 impianti di CDR Campani, per intenderci quelli che hanno prodotto oltre 6 milioni di ecoballe fatte di combustibile da rifiuti non a norma. Questo è alla base del filone di inchiesta che scaturisce dalla indagine madre sulla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, per cui è in fase dibattimentale il processo che vede imputati anche il presidente della Regione Bassolino e gli ex vertici di Impregilo, gruppo che ha costruito gli impianti in Campania. Si punta l'attenzione sui collaudi, dunque, ed è una questione che investe nello specifico numerose università campane, poiché delle commissioni facevano parte professori, presidi di facoltà di ingegneria ed anche l'ex rettore dell'Università del Sannio, Agnello Cimitile, attualmente presidente della provincia di Benevento, eletto nelle fila del PD. Ma dall'ordinanza si scopre anche che l'ex subcommissario Giulio Facchi, con esperienze maturate anche in Lombardia, ha svolto incarico di collaudatore e non solo, avendo semplicemente una licenza di terza media. Laura Vigiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Come state sentendo, Napoli è alle prese con le inchieste giudiziarie legate all'emergenza dei rifiuti, ma per fortuna, lo sappiamo, Napoli è anche altro. Napoli in questi giorni è soprattutto teatro. Parte la seconda edizione del Napoli Teatro Festival Italia con moltissimi appuntamenti di livello internazionale fino al 28 di giugno. 40 spettacoli in programma, 28 nuovi testi portati per la prima volta sulla scena, 20 le nuove creazioni in cui artisti italiani lavoreranno insieme a quelli di altri paesi, 2.500 in tutto gli artisti coinvolti, 250 le rappresentazioni. Tutto questo per la seconda edizione del Napoli Teatro Festival Italia, anche quest'anno sotto la direzione artistica di Renato Quaglia. Il Napoli Teatro Festival Italia è un festival che è di creazione, un festival che partecipa a far nascere nuovi spettacoli, sostiene quindi la creatività di artisti per presentare a Napoli e poi nei mesi successivi in Europa, in altri festival e in teatri europei, degli spettacoli che qui debuttano e trovano proprio inizio, creando esperienze assolutamente originali, nuove, facendo intendere che anche questa professione, quella del teatro, come già quella della musica o dell'arte contemporanea, deve essere letta internazionalmente, al di là dei confini. Al Napoli Teatro Festival si incroceranno sonorità e lingue diverse, ben 12, tradizione e nuove tecnologie, antico e contemporaneo, spazi teatrali tradizionali come il Teatro San Carlo, ma anche luoghi sconosciuti e di grande fascino che verranno così restituiti alla città. 33 in tutto gli spazi diversi tra teatri, palazzi e luoghi storici della città. Teatro San Carlo diventerà quest'anno sede ufficiale del festival, ma dall'altra parte saranno moltissimi anche gli spazi non usuali. Cito ad esempio i sotterranei della città. Alcuni spettacoli si terranno a 80 metri sottoterra, nelle cavità che stanno sotto alla città costruita. Alcuni invece si terranno addirittura sui tetti. Con cannocchiali e auricolari il pubblico potrà seguire una storia che accadrà nelle case, nei palazzi intorno a quello sulla cui terrazza si sono posti. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:46 minuti, GR Extra Large. Dunque ci colleghiamo con Beda Romano, perché poco fa la notizia della BCE che ha lasciato invariato il costo del denaro in Eurolandia. Beda Romano. Sì, la notizia era attesa, naturalmente. La Banca Centrale aveva ridotto il costo del denaro in maggio, siamo a livelli bassissimi, all'1%. L'importante a questo punto sarà di capire da parte della BCE se vi sono possibilità di ulteriori ribassi del costo del denaro nella zona euro. L'impressione è che in questo momento il Consiglio direttivo voglia mantenere il costo del denaro a questi livelli, anche perché nelle ultime settimane ci sono stati segnali di una certa ripresa dell'economia, non soltanto nei paesi emergenti, in Cina e in India in particolare, ma anche nel mondo industrializzato, negli Stati Uniti e nella zona euro. Ecco, Beda, a segnare, a segnare la vigilia del vertice BCE anche le inconsuete critiche giunte dalla cancelliera Angela Merkel in persona, secondo cui Federal Reserve e BCE si sono spinte un po' troppo oltre nell'immettere liquidità nei rispettivi sistemi e alla lunga, secondo la Merkel, queste manovre potrebbero rischiare di fare più male che bene. Reazioni da parte di Trichet in tal senso? Per ora nessuna, certo Trichet parla alle 12:30 durante una conferenza stampa e una domanda gli sarà fatta sull'argomento. La mia impressione è che Trichet rovescerà le cose e dirà che in effetti la signora Merkel ha perfettamente ragione, abbiamo ridotto il costo del denaro tantissimo in questi mesi, l'importante sarà di riportare il costo del denaro a livelli appropriati non appena sarà possibile, in altre parole non appena l'economia si sarà ripresa in modo solido. Grazie, grazie a Beda Romano da Francoforte. Ogni anno da 20 anni, a giugno, la Cina si chiude in un mutismo assoluto. Chiuso l'accesso a Tiananmen, aumentata la censura su internet, rafforzate le restrizioni sugli attivisti. Il numero di poliziotti attorno alla piazza e la perquisizione per chi si avvicina alla zona sono il segno che a Pechino parlare della rivolta dell'89 continua a essere un tabù. Migliaia e migliaia di studenti chiedevano più democrazia e meno corruzione. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno l'esercito travolse tutti. Non avrei mai creduto, dice questo ragazzo, che i militari avrebbero aperto il fuoco. Invece lo fecero e Tiananmen si tinse di rosso. Forse i morti furono 2000, ma non ci sono numeri ufficiali, né di quei giorni né dei giorni successivi, quando a migliaia vennero arrestati. A farsi sentire, come ogni anno, ci sono i dissidenti in esilio e ci sono le madri di Tiananmen. Quest'anno però c'è anche il libro postumo di Zhao Ziyang, il segretario del partito che cercò il dialogo con gli studenti, fu dimesso e esiliato. Davanti ai nostri occhi resta l'immagine di un ragazzo, camicia bianca, un sacchetto di plastica in mano, in terra la sua ombra disegnata in una mattinata di sole. È il 5 giugno 1989, è solo, di fronte a una lunga fila di carri armati. Resta lì, fermo per alcuni lunghissimi minuti. Poi è sparito nel nulla. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Questo accadeva dunque 20 anni fa, l'immagine che ha fatto il giro del mondo, l'immagine di una, uno studente solitario davanti a un carro armato. Quell'immagine, perché come ogni strage, ogni guerra, ogni pezzo di storia, c'è un'immagine che la racconta meglio e più di qualsiasi altra. La Cina ha condannato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ha chiesto proprio ieri a Pechino di fare chiarezza sul massacro di 20 anni fa. Controllata a vista da poliziotti in uniforme e in borghese, Piazza Tiananmen è apparsa così stamattina a chi ha scelto di seguire la cerimonia della zabandiera proprio nella ricorrenza del massacro degli studenti messo in atto dall'esercito cinese la notte tra il 3 e il 4 giugno di 20 anni fa. La piazza, che era stata completamente bloccata da polizia e militari ieri notte, è tornata accessibile nelle prime ore del mattino, a patto di sottoporsi a lunghi controlli personali. E negli ultimi giorni si è assistito a un giro di vite sulla sicurezza. Celebri dissidenti come Ding Zilin, leader del movimento delle madri di Tiananmen, o Tang Jitian, avvocato per i diritti umani, sono stati presi in consegna dalla polizia, scortati fuori città e non possono parlare coi media. In una famosa libreria-caffè vicino all'Università di Pechino, gestita da un reduce del movimento, le autorità hanno smantellato un'installazione di fiori e candele per commemorare i morti e social network come Twitter sono bloccati in tutta la Cina almeno fino a sabato prossimo, mentre sui media ufficiali non si legge una parola sull'anniversario. A 20 anni di distanza, insomma, lo spettro di Tiananmen turba ancora i sonni della leadership cinese. Antonio Taria, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Titoli di GR Extra Large, parte dal Cairo il nuovo dialogo americano con il mondo islamico. Cerchiamo un nuovo inizio, ora è tempo di superare le differenze, ha detto Barack Obama all'università egiziana. 20 anni fa la strage di piazza Tiananmen a Pechino, la polizia reprimeva la rivolta degli studenti che chiedevano un cambiamento. Abuso d'ufficio è reato ipotizzato dalla procura di Roma nei confronti del premier Silvio Berlusconi, indagato nell'inchiesta sull'impiego improprio degli aerei di Stato. Elezioni europee, Olanda e Gran Bretagna alle urne, questa sera gli olandesi comunicano l'esito del voto. 5 magrebini arrestati dai ROS nella primavera del 2006 preparavano attentati alla metropolitana di Milano e alla chiesa di San Petronio a Bologna. La fotografia della crisi economica secondo Federalimentare. 2 italiani su 10 riducono la spesa, si consumano pasta, carne, pesce, boom della verdura in vaschetta. Ed era l'ultima notizia di GR Extra Large, curato e condotto oggi da Daniele Biacchessi e Maria Piera Ceci. Restate con noi perché fra poco ad A Tempo di Sport ospite Carlo Ancellotti, alla parte tecnica Peter Bescapè. Ci risentiamo domani. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.